Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, ciao Flavio Suardi. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. 800240024 per intervenire in Palla Spicchi, messaggi 349-238-6666, naturalmente il coach Dan Peterson. Ciao coach. Ciao ragazzi, amici sportivi, buon pomeriggio e buon venerdì a tutti. Coach, sai chi c'è qui vicino a me? Chi? Dunque, vediamo se indovini. Una lingua pericolosa quasi quanto la sua mano destra, una delle più terrificanti della storia del nostro basket. Ci sono tanti che fanno quella distinzione. Ma c'è solo un Mario Boni. Ah beh. Ciao coach. Ciao Mario. Grande. Come vediamo, ma Mario, lui non ha peli sulla lingua, Boni, proprio quello che Spencer lo dice, ok? Quindi... Cerco di seguire le tue ome, coach. Io ero leggermente diverso, io faccio l'NBA e nessuno poteva dire niente dall'America. Lui lo fa proprio qui in Italia per Sky e poi è bravissimo. Quindi... E poi Marione gioca ancora, classe 63, classe di ferro, sei l'ultimo. Comunque. Certo, io sì, gioco ancora, 63 è incredibile, quasi 46 anni gioco in C, quindi ma continuo e tengo botta. Ah, benissimo. Insieme a Ugo Sconocchini. E cerco un'altra promozione. Coach, Mario Boni, voce per Sky per l'Eurolega. Ovviamente da lì partiamo. Una grande Final Four a Berlino. Yeah. Cesca Barca, grande partita. E poi abbiamo sbagliato ovviamente il pronostico. Perché chi ha vinto il derby greco poi ha vinto anche la finale. Ah, ho sbagliato io. No, ma anch'io. Tutti insieme. Io dicevo, ho indovinato le semifinali, ho detto Cesca e Panathinaikos. Però io favorivo Cesca e se quell'ultimo canestro va dentro abbiamo ragione, ok? Però non si può chiedere miracolo di Sisauskas ogni partita, cioè l'aveva fatto nel semifinale con penso 16 punti nel quarto e poi ovviamente l'ha preso il ferro lì, ma super rimonta da Cesca, da un super coach Messina contro un super coach Obradovic. Mario, noi pensavamo tutti quanti che insomma quel derby greco fosse troppo per arrivare poi carichi a una finale, invece il Panathinaikos ha fatto un mezzo miracolo approcciando così quella partita. Beh sì, direi che in ogni caso è stato tutto nel giro di un tiro, perché se Borussis avesse fatto canestro staremmo parlando della finale Olympiacos. Però io ho pronosticato il Barcellona, sono convinto, non so se Dan mi dà ragione, se Messina avesse allenato il Barcellona adesso staremmo commentando la vittoria del Barcellona. Well, è chiaro, e si può fare questo con tutte le squadre. Io ho avuto dei grossi dubbi, fra l'altro, su Giannakis dell'Olimpiade, che qui a Milano è una squadra che proprio la gestione. Io parlo come ex allenatore, quando vado a una partita non voglio dire come mai ha fatto questo, come mai ha fatto quello, come mai non ha fatto, cioè, e ogni singola cosa fatta da Giannakis stava dicendo come mai ha fatto questo, come mai non fa questo, come mai mette questo, come mai toglie quello, come mai, cioè una gestione. Messina non ti dà mai né lui né Obradovic, tu stai lì zitto tutta la partita, quindi è ovvio che se metti Messina o Obradovic allenare Barcellona loro fanno un altro risultato. E questo ti dirò di più, io ho avuto quella sensazione su Giannakis proprio quando nelle ultime azioni della partita, mi sono rimaste le ultime due azioni di quella semifinale, la penultima quando Papaloukas ha palleggiato per 20 secondi e poi ha scaricato il pallone a un compagno per un tiro incredibile da tre, e poi l'ultima azione, sì, hanno trovato un discreto tiro di Borussis, però non credo che volessero fare quello. No, perché comunque Borussia è un grande prospetto, però a chiedere lui a fare il tiro così mi sembra fuori. Cioè, io non so su cosa ne pensa Mario, però io ogni tanto questi grandi ex grandi campioni, e lui è stato un super campione in Giannakis, ok, e anche ha fatto dei buoni risultati, ha fatto secondo nel mondiale nel 06, ha vinto gli europei di 05 con la Grecia, due risultati che gridano proprio, non ci sono dubbi, però a vedere lui con i miei occhi ho l'impressione che non è ancora, nonostante questi risultati, un allenatore a livello di Obradovic e di Messina. Guarda, coach, io sono assolutamente d'accordo con te. Avevo criticato fortemente Giannakis dicendo che non era, secondo me, in grado di condurre una squadra quale l'Olympiacos. E soprattutto la gestione dell'ultimo pallone, al di là di Borussis, diceva bene Flavio, è stato dato a lungo e secondo me l'Ingrir aveva la palla in mano, il piccolo doveva giocarsi uno contro uno, cercare la conclusione. È andata una palla brutta a un lungo di 22 anni. Si sa, in genere... La palla finale la gestiscono i piccoli e così non è stato. Comunque, quindi diciamo nel trattamento della palla. Coci, il Cesca però è una specie di miracolo, perché sotto di 23, mamma mia, tirando malissimo, è arrivato ad avere sui polpastrelli di Siskauskas la palla per vincere l'Eurolega. Io non avrei scommesso una lira, lira sulla rimonta del Cesca. Io lo davo per finito, Cesca. Però questa è la super grandezza di Messina, che sai quanti allenatori dopo la partita dicono avessimo fatto, cioè Messina lo fa durante la partita, lui non dice devo aspettare, cioè lui sa bisogna qui pressare subito. Io vedo tanti allenatori vanno sotto di 23 e poi non so, 6 minuti alla fine sono ancora sotto e comincia a pressare troppo tardi. Messina sapeva il momento di cominciare e quasi le ha dato ragione, ha fatto esattamente quello che doveva, ha recuperato 22 punti, poi erano più, cioè 21, e se tu pensi alla fine erano sotto di 2, con il tiro in mano, cioè più di così, un rimonto che ti dà più di così non è possibile. Messina li ha riportati in partita con la sua tecnica, la sua determinazione, la sua lettura della partita. E più tardi dovrebbe essere nostro ospite Ettore Messina, dopo le 14.30, così ci litighiamo subito, gli chiediamo dove va l'anno prossimo lui. Messina è una tomba, okay. Io non so se siete d'accordo, credo che Messina avrebbe giocato volentieri anche un supplementare in quella partita, perché non avrebbe perso mai il Cesca supplementare. Bisogna dire che rientrare da 23 è la rimonta più clamorosa degli ultimi 100 anni, da quando è stato invitato a pallacanestro. Bisogna dire che ha sprecato molte energie il Cesca. Mi è piaciuto il tiro da 3 punti, cioè vai per vincere, sì. Quella partita lì denota insomma lo spirito, carattere indomito del giocatore, ma anche dei suoi giocatori, ed è quello, io credo, nello spogliatoio abbia detto ai propri giocatori, cioè con quella faccia da cadaveri già sconfitti non va bene, siete dei grandi giocatori, dimostratelo in campo. E credo che nel secondo tempo il Cesca abbia preso proprio questa strada, cioè dimostrare sul campo il carattere, la voglia di poter far bene. Ma guarda, solo Messina è capace di rovesciare una partita così, cioè veramente bravo. E bisogna anche citare Obradovic, che secondo me, forse non in questa partita, ma generalmente il più grande coach in Europa del quarto periodo, cioè le sue squadre che hanno fatto tante recuperi nel quarto, mi ricordo contro Messina nel 0-2 a Bologna, finale Panathinaikos contro Virtus, e Virtus era più 15 all'intervallo a Bologna, ok? E Obradovic ha vinto 5-6 punti, ha capito alla fine con Bodiroga, eccetera. Però Obradovic è uno che le sue squadre giocano 40, e anche Messina. Invece Messina forse è più grande per fare un grande recupero, invece Obradovic per fare il recupero di 10 punti e gestire la partita in quarto, sono due maghi. Dice, sì, Mario. Ma sicuramente quando poi la partita finisce nel giro di 2 punti con la palla della vittoria da una squadra all'altra, io dico che entrambi hanno fatto un grandissimo lavoro. Sostanzialmente credo che il Panathinaikos fosse più forte del Cesca per una panchina un po' più profonda, e Obradovic è l'allenatore più dominante ultimamente negli ultimi 10 anni in Europa. Messina è quello, secondo me, più capace nel costruire una squadra. Certo è, ripeto, che la lunghezza della panchina del Panathinaikos era sotto gli occhi di tutti. Coach, lunghi che tornano dominanti, mi sembra sia la lezione di quest'anno del Pana, perché Pekovic più Battista sono un problema molto serio per chiunque, Cesca compreso. Torna di moda il lungo dominante anche in attacco, anche offensivamente. Ma voglio mettere una qualifica: se tornano i lunghi bravi, fanno differenza. E se torna un lungo che non è tanto bravo, fa danno. Però bisogna avere il talento, cioè, e poi ovviamente Borussia è un altro giocatore. Poi Messina ha avuto David Anderson, che gioca a Barcellona, e si vede che un Anderson Barcellona viene in Final Four. Cioè, proprio assolutamente sì, sarà sempre lo sport dei lunghi, perché hanno attaccato quel anello 3,5 metri sopra il livello del suolo, hai capito? Quindi io lo chiamo l'alimento verticale del basket, cioè mentre nel calcio un piccolo come me, Maradona è piccolissimo, Pelé è piccolissimo, il piccolo, anche se il calcio anche sta andando al giocatore più prestante, Paolo Maldini è 1,88 m, tanto per dire, Ibrahim invece qua, l'ho intervistato, lui è 1,95 m, quindi misure basket, però basket è soprattutto lo sport per i lunghi, anche se pallavolo sta avvicinando, però devono avere talento, personalità. E poi nel caso, come hai citato Mario, di Borussia, per fare quel tiro lì anche esperienza. E devono essere forse anche un po' multidimensionali, cioè un lungo alla Lavrinovic, per esempio, che abbia buone mani per uscire, insomma, abbia anche questo tipo di dimensione. Pekovic centrovero. Sì, però Pekovic centrovero, sì, cioè un pivot. Un'altra cosa fondamentale adesso dei lunghi, che non devono essere più quei sacchi di patate di una volta, ma devono essere mobili, perché sì, tutti questi uniscono, forse anche, ripeto, è cresciuto proprio il modo di allenare, di alimentarsi, eccetera. Pekovic, ho visto fare, non so se Dan è d'accordo con me, un contropiede dove andava cercato la schiacciata, il primo a andare in attacco, velocità nel portare blocchi, velocità nel girare, nel pick and roll e andare verso canestro. Insomma, tutte caratteristiche che hanno cambiato, modificato il modo di giocare a pallacanestro. Adesso vanno molto i lunghi, sì, grossi, però anche mobili, altrimenti sono dei sacchi di patate che non servono bene a niente. Ma adesso vi dico perché, uno dei motivi perché. Uno, il trapezoide in Europa, che adesso vanno a cambiare, perché per me io non sono d'accordo, ha costretto ai lunghi europei, e anche il fatto che gli arbitri, la seconda cosa, sono severi nel fischiare 3 secondi, e approvo questo, i lunghi non possono fare tendaggio nella zona di 3 secondi come una volta, devono attraversare la zona in fretta, diventare più giocatori esterni, e quindi abbiamo David Anderson, NBA, abbiamo un esempio classico di Dirk Nowitzki, Bargnani, tanto per citare un altro, Garbajosa, se vogliamo dire anche se un'ala, però Bargnani è 2,13 metri, corre, tira da fuori, gioca dentro, gioca fuori, multidimensionale, cioè è anche la forza delle cose, e anche bisogna dire grande insegnamento dalla parte degli allenatori qui in Europa. Coach, io prima di salutarti volevo chiederti invece una cosa sul campionato italiano, poi ne parliamo. Ieri sera penultimo turno, Fortitudo oggi sarebbe salva, domenica non lo so perché gioca a Teramo, mentre Rieti va sul campo di una Udine che, si diceva prima, forse la battiamo anche noi, sì, non è, in questo non è momento. Niente ancora. Però Milano e Virtus Bologna naturalmente, due squadre malaticce sulla porta dei playoff. Adesso faccio un commento, ovviamente queste due squadre secondo me possono anche fare storia nei playoff, rumore nei playoff, però tutti e due erano, cioè il Virtus ha vinto quella Coppa a Milano, ha vinto 8 partite in fila, e ci comincia a pubblicizzare le cose, gli articoli sul giornale, il momento magico, ha vinto la Coppa, e dico, il bacio della morte. Io quando allenavo non volevo mai un articolo positivo, piuttosto criticarci, ok? Perché ci fa arrabbiare tutti. Io, con la Gazzetta, i miei amici della Gazzetta li prendono in giro per questo, mi chiamano, Dan, magic moment del Milano, spiegaci, no, non voglio parlare, perché non chiami, io ti do un'idea per un altro articolo, vai a parlare con il coach di Udine del loro momento, o di Pesaro, cioè, io volevo evitare gli elogi, hai capito? E secondo me è anche umano, cioè vince 8 partite in fila, ti metti anche alto in classifica, è anche umano avere questa flessione qui. Poi figurati, la Virtus ha vinto una Coppa, hanno detto alla prima Coppa da quando Messina ha vinto, cioè meglio non saltare addosso questo, meglio dire ok, archiviato questo, andiamo avanti, zitti tutti sotto acqua, sottomarini con i siluri, eccetera, non far tante onde e non far tanto rumore. Grazie coach, ci sentiamo ciao, venerdì. Ciao Marione. Ciao Dan, grande. Ciao. Palla spicchi. Torniamo insieme, sempre con noi Mario Boni. Allora Mario, si diceva di Virtus Bologna e di Milano, in un momentaccio, vinto è vero, però arrivi sulla porta dei playoff in una condizione anche mentale pessima. Ma guarda, due squadre, sì, si parlava di 8 vittorie consecutive di Milano, la Virtus Bologna che vince l'Euro Challenge, cose positive, ma allora io mi domando perché a Siena questo non succede? Cos'è la cosa più importante in una squadra? Il gruppo, la chimica? Siena alla mentalità, gli uomini non bisogna farsi una cattiva idea, non sono così superiori agli altri, ma è la chimica, ma è la mentalità. Siena ha perso solo una partita, ma perché ogni allenamento, io ho avuto il piacere di parlare con Pianigiani, e il modo in cui uno approccia la partita, perché Siena questo non succede, ha fatto le finali di Coppa Italia, è arrivata alle migliori 8 in Europa, eppure ogni partita alla morte, va a giocare a Bologna e vuole vincere quella partita, giocherà in casa domenica contro Milano e vorrà vincere quella partita, perché le altre squadre non è così? La Virtus Bologna 4 sconfitte nelle ultime 4 partite, ieri ha perso a Montegranaro, che a Montegranaro doveva salvarsi, ma perde anche a Ferrara. Io credo che ci siano dei limiti. Milano, abbiamo visto ieri contro Biella, arrendevole, senza tonicità. Allora mi domando, cos'è la cosa giusta? Perché i giocatori, Milano ce li ha, la Virtus ce li ha, e la mentalità. Siena ha la mentalità, le altre squadre no. È una squadra però costruita negli anni, una squadra che ha avuto il pregio di tenere per lungo tempo i suoi giocatori determinanti. Questo non ce l'ha nessuno in Italia. Ma ci sono tante squadre che però è da tempo che cercano di fare bene, poi le altre squadre passano, perché Milano ha giocato finale scudetto, la Virtus ha giocato finale scudetto, Siena, non dimentichiamoci che 15 anni fa lottava per non retrocedere in A2, addirittura ha avuto anche degli anni in B1. Ovvio che poi con l'arrivo di Minucci ha avuto tempo di costruire, di fare una squadra, l'allenatore cresciuto in casa, Pianigiani e prima Recalcati, insomma questo bisogna costruire. Ma perché le altre squadre ogni anno cambiano squadra, esatto, cambiano allenatore, cambiano squadra? E soprattutto io non sopporto questi mercato, il mercato di riparazione, le squadre vanno fatte d'estate. La Fortitudo, un altro esempio, cos'è? Una squadra che deve retrocedere? È una roba clamorosa che sia adesso terz'ultima, però è una squadra clamorosa che sia lottando, stia lottando per non retrocedere. Le squadre vanno costruite d'estate. Ce la fa la Fortitudo secondo te? Ma adesso è tutto nelle sue mani, giocherà a Teramo, Teramo che si gioca un posto prezioso per l'accesso ai playoff. Deve vincere per rimanere tra il terzo, il terzo secondo posto è già di Roma, quindi se vince terzo. Se vince terzo a Teramo deve giocarla, quindi. Ma la cosa clamorosa è che qui non si sta parlando, cioè analizzando il campionato, non è che si parla arrivare seconda, terza, quarta, quinta, ma si parla di evitare Siena, cioè l'obiettivo è evitare Siena, quindi pensiamo, cioè incredibile, noi che siamo operatori di Palermo, amiamo la pallacanestro, amiamo la competizione, non è la posizione in cui uno gioca, ma la posizione in cui uno evita Siena, questo che è fantastico. Sì. Senti, ma volevo chiedere intanto a Mario questo, è tornata sotto sotto Roma, perché ha avuto un periodo molto, molto difficile, guarda caso coinciso con l'assenza di Becirovic. Vabbè. Quando Gentile non ha avuto Becirovic, Roma è stata una squadra molto diversa rispetto a quella che invece è tornata ad essere, e Roma è arrivata seconda adesso. Beh, allora tu mi obblighi a sfondare una porta nella quale io mi ci tuffo in pieno, perché mi vieni a dire una cosa che io dico sempre, è l'accettazione del ruolo e la gratificazione di quello che uno fa. E allora ritorno a Siena. Chi ha in panchina Siena? Carraretto, Lectale, Res, che anche giocando due minuti sono contenti del minutaggio che hanno, perché giocano per una grande squadra. Roma, cosa? Becirovic ha tantissimi uomini, non so quanto siano gratificati nel giocare pochi minuti. Quindi il problema di Roma, nonostante sia seconda, però non ha vinto niente neanche quest'anno per adesso, è trovare le motivazioni, gli stimoli in questi uomini che giocano di meno. Ma zero titoli, mi sa che per dirla alla Mourinho quest'anno tutti, perché Siena non la vedo facilmente attaccabile, nonostante quanto continui a dire Bonicioli. Siamo a livello di Siena, non so se lo pensa ancora dopo quattro sconfitte, ma credo di sì, insomma, vedremo. No, perdonami, non lo so, forse perché deve rinnovare il contratto, allora vuole dirlo, vuole mettere un po' di pepe dietro al patron Sabatini. Ma dopo quattro sconfitte è dura, io starei un attimino su chi va là. Abbiamo il primo ascoltatore di oggi, Paolo da Pescara, ricordo 800240024 per parlare con noi, soprattutto con Mario Boni. Paolo, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Niente, io sono appunto, come ricordavate, abruzzese, telefono da Pescara, però seguo ovviamente le sorti della Tercas Teramo, che sta facendo un campionato penso strepitoso, almeno qui da noi viene così considerato questo campionato. No, non solo da voi, non solo da voi, in assoluto. Appunto, in assoluto. Ecco, volevo sapere da voi, che siete sicuramente più esperti di me, intanto questo campionato come ve lo spiegate, e poi le possibilità che ha in effetti la squadra di Capobianco di arrivare in semifinale, perché no, in finale, sempre se insomma riuscirà ad evitare la corazzata Montepaschi prima. E poi un appunto sulla gara di ieri, che Teramo ha perso proprio a fil di sirena a Treviso, però sull'ultimo tiro con Teramo palla in mano Carroll c'è stato un fallo, io ho visto le immagini, forse non significa niente, è un episodio, d'accordo, però pochissimi secondi, clamoroso sul tiro di Carroll, poi ribaltamento di fronte, Bulleri con la sua bomba ha portato la vittoria a Treviso. Grazie, vi ascolto per radio. Hey. Guarda, il Teramo, sai, io ho giocato 5 anni in Abruzzo, 2 anni a Teramo, nel quale abbiamo centrato la promozione, e quindi sono affettivamente legato. Io credo che la bravura del presidente Antonetti è stato quello di creare poco alla volta un gruppo solido di persone valide che facessero pallacanestro, e chiaramente dopo vari tentativi di solidità in A1 l'aver preso questo allenatore Capobianco, che si sta rivelando una rivelazione, scusatemi il gioco di parole, perché ha saputo creare la chimica, che è ciò che importa, al di là di un ottimo playmaker emergente, o forse già una conferma che è Pepe Poeta, un americano che sarà l'oggetto del desiderio, come Ibrahimovic nel calcio, cioè abbiamo David Moss, l'oggetto del desiderio, il collante supremo di questa Teramo, un capitano in panchina che è Lulli, insomma un piccolo centro abruzzese che ha trovato l'ideale per formare questo gruppo. Purtroppo, e venendo alla seconda domanda del radioascoltatore, non ho visto la scena incriminata, ho solo letto della bomba di Bullera a qualche decimo di secondo, però quello che è importante che Teramo ovunque vada se la gioca fino alla fine. Scommetto che ti piace Poeta. Poeta è un giocatore, è un funambolico, è uno di grande personalità. Io sono innamorato di un giocatore del genere, perché crea in B, non ricordo Veroli, quando fece 50 punti addirittura, si diceva è troppo piccolo, non ha possibilità, non è abbastanza veloce, non ha abbastanza tiro, è andato in A2, ha fatto bene, adesso in A1, in A1 sta facendo quello che è sotto gli occhi di tutti, in nazionale io credo che sia una delle grandi rivelazioni, e perché no, non possa andare in una grande squadra? Io credo che se la Virtus Bologna ha Caponen, forse Spoeta starebbe meglio. Mi fa venire in mente, Carlo, un nostro comune amico Fabio Di Bella come tipo di carriera, nel senso come tipo anche di evoluzione che potrebbe avere, cioè Fabio quando è arrivato in A1 è andato a giocare a Biella e poi da Biella è andato alla Virtus Bologna, quindi potrebbe anche essere questo il percorso di un giocatore come Poeta, che da uno piccolo centro come Teramo potrebbe anche trovare spazio in una grande. E invece la rinascita di Bulleri, Mario, come la valuti? Ma io Bulleri è stata di Bulleri più che altro. È stato il movimento di mercato più clamoroso di 4-5 anni fa, quando andò da Treviso a Milano, preso dalla gestione Corbelli con il direttore sportivo Gino Natali. E secondo me è stato un po' schiavo del proprio contratto. Si sa che quando uno ha un contratto così alto si ha grande aspettativa, dice in base a quello che io ti pago mi devi rendere. E forse lui non ha saputo gestire. Lui, ragazzo di Cecina, provincia vicino sul mare, a piccola cittadina di provincia, quale Treviso, andare nella grande metropoli, non è riuscito a esprimere il gioco che sapeva fare, è stato subito messo in discussione, è stato, forse non si è creato neanche le condizioni perché lui potesse rendere al meglio tranne il primo anno, e dopodiché uno, sai, si ammoscia nel senso, non riesce più a essere considerato, gli prendono altri giocatori nel suo ruolo e ogni volta viene messo in discussione. Io ero sicuro che non era l'ombra del giocatore che abbiamo visto a Milano, è rinato a Treviso e si vede che è lì che lui trova la sua dimensione nella piccola città di provincia. Forse non ha avuto la cattiveria necessaria per imporsi a Milano. Non ha, forse no, forse anche perché è stato forse sopravvalutato, nel senso non è, lui è un ottimo giocatore ma non così forte da poter avere essere l'uomo franchigia. Ecco, tutti si aspettavano che lui fosse un uomo franchigia, probabilmente non lo è, e lo è in parte a Treviso, dove trova l'ambiente familiare. Dunque adesso ci fermiamo per sentire le informazioni dalla borsa, però prima leggo a Mario Boni questo messaggio. Mario, scrive Giorgio da Montopoli: Mario Boni è un monumento del basket italiano, solo chi l'ha visto nella Bialetti sa cosa intendo. Non ho più visto una partita dal vivo da quando andò negli Stati Uniti. Vabbè, ti ringrazio, mi fai tornare indietro con gli anni, quindi quando si torna indietro con gli anni si vola un po' così sull'aria del ricordo. Palla spicchi. Dunque, ecco che torniamo, sempre con noi Mario Boni, ma soprattutto collegato con noi, prima l'ho annunciato, il coach, ora vice campione d'Europa, Ettore Messina. Coach, grazie. Prego, buonasera. Buonasera a lei. Comunque un'impresa, stiamo dicendo da una mezz'oretta, cioè la vostra, da meno 23, e tirando male fino alla palla della partita sui polpastrelli più adatti, quelli di Siskauskas. Quel tiro da tre punti era quello che lei voleva? Ma noi nel chiamato gli avevamo detto di, eravamo prima di tutto preoccupati di mettergli la palla nelle mani, e ci siamo riusciti. E poi gli avevo detto che di cercare una penetrazione per pareggiare, che se gli avessero chiuso per la penetrazione, se aveva il tiro da tre, di prendere il tiro da tre, che avremmo preso quello che la difesa ci concedeva. Devo dire che lui ha preso un tiro che per lui è un tiro abbastanza normale, tanto è vero che la palla battuto due volte sul ferro e poi uscito, quindi insomma, poteva andare dentro, è andata fuori, siamo qua da secondi. Insomma, Ettore, sono Mario Boni, ciao. Ciao Marione, come stai? Bene, bene, faccio i complimenti in ogni caso, perché la rimonta da 23 punti è stato veramente incredibile. E io ho letto qualche tua dichiarazione nello spogliatoio, cosa hai detto ai ragazzi per fargli reagire? Niente di particolare, perché queste sono persone che hanno carattere, che hanno diciamo, senso di responsabilità. Noi avevamo due possibilità: una era quella di chiudere il più possibile in fretta e andare a casa, oppure quella di rimetterci tutto quello che avevamo nel secondo tempo, cercando di riportare la partita su un piano quantomeno di dignità. Ecco, diciamo. Poi loro sono riusciti a fare anche di più, perché penso che in quel momento lì la sensazione più normale sarebbe stata quella di scappare via, no? Di finire prima possibile, certo. di togliersi di mezzo. Certo. E invece devo dire che hanno ricostruito la partita con pazienza e non con una reazione isterica. Questa è la cosa che mi ha fatto più piacere. Certo. Un'altra domanda. Ho notato che il Panathinaikos era più profondo, e poi alcuni tuoi giocatori forse erano poco avvezzi a certi palcoscenici. Per esempio Morris l'ho visto in grande difficoltà, e anche Zizis non l'hai utilizzato giocato tanto. Credo insomma che hai fatto in ogni caso un miracolo, riuscire ad avere la palla da almeno due per vincere questa partita. Beh, quello l'hanno fatto i giocatori, nel senso che tu sei meglio di me, queste partite le giocano i giocatori, tu insomma, non hai tanto margine operativo, ecco. Qui ci vuole gente con la personalità, gente con la capacità tecnica e col carattere di prendersi responsabilità. Noi sicuramente eravamo più corti di loro, soprattutto a livello di rotazione, i falli del primo tempo ci hanno condizionato molto e ci hanno costretto a giocare contemporaneamente con due, se non addirittura tre cambi in campo, e con loro lo paghi perché sono la squadra più profonda d'Europa e anche la più potente, direi, da un punto di vista fisico. Ecco, però coach, tatticamente voi la partita l'avete cambiata quando, non so se per costrizione o per voglia o per certamente decisione tua, avete deciso di abbassarvi un po' per cercare di recuperare dei palloni. Forse quella lì è stata la chiave che ha messo un po' in difficoltà il Panathinaikos, che non ha potuto più opporvi la potenza di Batiste e di Pekovic. Sì, in effetti da questo punto di vista la partita è strana, perché loro fino adesso erano arrivati lì dominando dentro l'area con Pekovic e Batiste. Viceversa, il primo tempo loro erano andati avanti con i tiri da tre punti. Loro sono una squadra che tira abbastanza bene da tre punti, ma non è una squadra che basa il suo gioco soprattutto sul tiro da tre punti. Invece quel primo tempo ci aveva veramente messo in difficoltà la loro percentuale. Nel secondo tempo, con un po' più di aggressività sul perimetro, un po' più di agilità, in effetti siamo riusciti a toglierci questi tiri e quantomeno a togliergli gli spazi che ci avevano messo in difficoltà. Pekovic e Batiste, appunto, è un altro discorso che facevamo prima, lunghi che tornano ad essere dominanti, tornano ad essere un fattore determinante anche al massimo livello europeo. È un nuovo trend, coach? Si dovranno tutti Guarda, devo dire che noi l'anno scorso abbiamo vinto la Coppa con Andersen e Smodis, due lunghi magari non potentissimi sul piano atletico, però due lunghi realizzatori. Pekovic e Batiste sono due giocatori magari più potenti fisicamente, però la sostanza non cambia, sono due lunghi che se gli dai la palla ti fanno i punti, ti fanno del male, ti costringono a chiuderti su di loro. In passato il grande Maccabi di Baston e Vujicic aveva Jasikevic e Parker, però sotto canestro con quei due costruiva molte delle sue vittorie. Direi che sicuramente è la stessa Olympiakos con Vujicic adesso e Borussia, è una squadra che ha due lunghi che possono fare dei punti e creare dei problemi. Direi che avere dei punti dai lunghi e una presenza costante in area è ormai diventato qualcosa da cui non puoi prescindere. Coach, per chiudere, ieri Andrea Bargnani in intervista ha detto: Ettore Messina ha tolto ogni dubbio, può allenare qualunque squadra del mondo, ma questo non c'era bisogno, dicesse Bargnani, perché lo pensiamo un po' tutti. Molto gentile. Io non voglio chiederti di sbilanciarti, ma alla prossima sfida stai pensando? Direi una bugia se dicessi che non ci sto pensando, adesso che ci penso tutti i giorni, però bisogna anche sentire quali possono essere le possibilità concrete o qui o da qualche altra parte, e poi cercare di riflettere bene per prendere una decisione che insomma che poi speriamo che vada bene. Le cose non dipendono solo da me, dipendono anche da tanti altri. Adesso intanto vorrei finire bene il campionato qui, sperando di arrivare in finale e magari di vincerla, e poi vediamo un po' cosa succede. Già oggi abbiamo una semifinale molto dura con Kazan, quindi abbiamo da pensare ad altro. Mario, vuoi dire qualcosa ancora a Ettore prima di salutarlo? No, io volevo solo dire che ho ripetuto anche in televisione che se tu avessi avuto in mano il Barcellona vincevi tu la Coppa. Questo solo volevo dirtelo personalmente, l'ho ripetuto a Jose, la mia favorita del Barcellona. Se tu avessi avuto quella squadra vincevi proprio a mani basse. Confermo. Quindi mi stai dicendo che ho sbagliato un sacco a non andare lì l'anno scorso. Ettore, grande. Grazie coach, in bocca al lupo. Grazie veramente. A presto. Ciao. Grazie a Ettore Messina. Adesso torniamo agli ascoltatori, io direi. Cosa dici? Dove va? Io a me piacerebbe vederlo, perché si è visto nettamente nelle semifinali la differenza di capacità di allenare, la capacità di visione sulla partita di Ettore rispetto a Pasquale. Se il Barcellona non dorme, forse c'è già stata un'offerta ancora sostanziosa per portare Messina a Barcellona. Saluti all'ex dio dell'Aris, Mario Boni, naturalmente, di cui ricordo in diretti 40 punti in quel di Verona con vittoria di Roseto contro i Dead Man Walking della loro coach Lino Lardo, scrive un ascoltatore di Roseto. 349-238-6666, messaggi, ma mi interessano molto le telefonate, 800-24-0024, andiamo a Modena e poi in provincia di Como. Marcello, Modena, buonasera. Buonasera. buonasera, saluto tutti gli ascoltatori e le persone che ha con lei. Grazie. Io volevo parlare di Milano, avete iniziato a parlare di Milano e di Bologna. Mi sembra una squadra trovare similitudine col calcio. Milano è diventata una piazza molto, molto snob, molto dove c'è la bella vita così. E la vedo anche un po' nel calcio. L'allenatore Bucchi mi sembra una persona che, essendo arrivata a Milano, sembra che sia arrivato al punto di arrivo e non di partenza, di cercare di vincere con quella squadra. Io trovo questo in Milano, sono tifoso dell'Armani Jeans, ma ho notato questo in questo campionato di Milano, volevo condividere con voi questo pensiero. Manca l'umiltà. Ma non lo so. Una squadra come Milano. Non lo so, Milano. Saluto si fa... e vi ascolto. Grazie, grazie. Milano si fa la bella vita se si vince, se no un po' meno. Ma comunque è molto, domanda molto pungente, molto strana. Ma guarda, in un certo senso il fatto di essere all'Armani Jeans è proprio una sensazione di, come dire, quasi di arrivo. In un certo senso condivido. C'è forse anche da dire che ci sono alcuni giocatori, il primo è Vitali, che secondo me è un ottimo playmaker in potenza, come potenziale, però ancora deve poterlo esprimere, bisogna dargli un attimo di tempo perché viene da Montegrana, una piccola realtà, giocare a Milano non è facile. Quello che faccio l'appunto a Milano è che ha un po' rinnegato le scelte estive. Papso è stato messo prima in squadra, poi fuori squadra, dentro fuori, Joby Thomas uguale, adesso è ai margini della rotazione, quindi è stata un po' rivista la formazione, e questo credo che sia un po' la difficoltà che sta incontrando Milano nella chimica, nella solidità di squadra. E adesso hanno anche integrato Marconato nel roster per i playoff, certo, a causa di un po' di infortuni. Splendida idea secondo me quella di Marconato, che poteva venire anche prima, sì, perché Marconato è un giocatore che poteva essere utile a questa Milano. Il pensiero che ho sempre avuto su Milano è che arriva Armani, ti aspetti un'altra squadra, onestamente, detto fuori dai denti, ti aspetti una squadra in grado di competere ad un livello più alto di quanto non possa fare questa buona squadra, perché non è altro che una buona squadra se stiamo parlando di massimo livello italiano. Certo, io avrei fatto scelte diverse, tanto è vero la società appunto ha rinnegato in parte le scelte estive perché Papso fuori, a parte l'infortunio, però non ha mai avuto un rendimento all'altezza, Joby Thomas, l'arrivo di Maurice Taylor, l'arrivo di Hollis Price, adesso Marconato, e quindi anch'io sono d'accordo con te, mi aspetterei una Milano più importante. Non dimentichiamoci che ha fallito l'entrata nelle Final Eight di Coppa Italia, quindi certo, il primo appuntamento è stato fallito. Adesso c'è la cosa più importante, è il campionato, ma soprattutto i punti per ottenere l'Eurolega, quindi sono, è un obiettivo importante per una squadra di Milano e targata Armani Jeans. Sentiamo anche Lorenzo da provincia di Como prima del traffico. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi richiamato. Grazie a lei. Ho visto ieri l'ultima partita in casa di Cantù, potrebbe essere l'ultima del campionato, una sconfitta brutta, una squadra molle, senza movimento. Sì, una squadra... Siamo fermati dopo. Una squadra con poca voglia, l'impressione è stata questa, con poca voglia di magari di andare ai playoff, di giocarsi questa carta in playoff, poi contro Siena, vabbè, una partecipazione pro forma, però non sembra una squadra che ha tutta questa voglia di post-season. Deve essere successo anche qualcosina all'interno, si è rotto qualcosa secondo me, perché comunque Cantù nella prima parte di stagione era un'altra squadra rispetto a questa. Sì, se guardiamo la partita di ieri, indubbiamente deludenti. Io ho sentito qualche dichiarazione, ci sta anche la tensione per un impegno del genere, perché io non vedo mai un giocatore che per fare un dispetto... c'è un proverbio che è meglio non ripetere per radio, sì, però io credo che ogni giocatore abbia nel proprio contratto anche diversi soldini per andare avanti nella post season, quindi è dovuto al fatto, secondo me, la tensione, o una squadra che ha già dato il massimo di quello che poteva dare e più di lì non poteva. Pesaro, non dimentichiamoci che è una squadra da prendere con le pinze, non è così male, quindi Cantù Pesaro ci sta la sconfitta. Sì, anche se anche la stessa Pesaro sembrava aver tirato i remi in barca a un certo punto, poi adesso e quindi chissà che partita è venuta fuori. Così abbiamo risposto anche a un altro messaggio. Sono Luca, ieri era Cantù, purtroppo mi spiegate le ultime uscite non esaltanti di questa squadra che potrebbero costare seriamente i playoff. Picchi. Dunque, nel periodo di viabilità stavamo facendo quattro conti in prospettiva playoff. Sì, esatto. E se Cantù vince la prossima partita sul campo di Roma è matematicamente dentro, anche perché ha due punti di vantaggio rispetto alla coppia Pesaro-Ferrara. Se Cantù dovesse perdere, a quel punto Pesaro, per agganciarla, deve vincere contro Biella, che lo ricordiamo è già ai playoff. Sì. Nel giro è anche Ferrara, che gioca contro Montegranaro, e qui in caso di arrivo a tre bisognerebbe capire un po' meglio come come sono gli scontri diretti, perché ci sono tre squadre che arrivano a 28 punti, bisogna determinare bene o male la classifica. La mega terrificante classifica russa, e quindi che nessuno, che neanche Carlo Rubbia riesce a capire come dipanare solo la fine, dopo 2-3 ore riusciremo a capire gli incroci. Il terrore dell'ultimo giorno, io già tremo all'idea, domenica sera, dopo il giro delle 20, come sempre, saremo qui a darvi i risultati del basket, non aspettatevi subito la grida dei playoff, perché dobbiamo anche fare i conti, quindi fate i bravi. Andrea da Teramo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prima di tutto approfitto per salutare Mario Boni, ciao. Perché noi ci conosciamo, sì. Andrea Carrelli. Ciao Andrea, ciao. Certo. Ti ho chiamato perché volevo fare una domanda molto veloce. Volevo sapere, io ho vissuto a Bologna anni fa e ero tifoso della Virtus, quella che poi è scomparsa, sì. E che dopodiché appunto il campionato secondo me si è livellato verso il basso. Ora Teramo quest'anno è al terzo posto, sono molto contento, veramente stiamo vivendo un sogno, una favola. E quello che, la domanda che mi chiedevo io era questa, visto che poi sotto di noi ci sono squadre tipo Milano, Treviso e altre che anni fa erano molto molto in auge sia in Italia ma soprattutto a livello europeo, e il basket che stiamo vivendo oggi è veramente molto molto ridotto come qualità in Italia rispetto agli anni passati, perché ho visto una finale di Eurolega veramente a livelli stratosferici. Oppure davvero appunto Teramo è riuscita ad arrivare a livelli così alti da meritare appunto in modo migliore questo terzo posto che sta appunto difendendo con i denti? Beh, ti ringrazio Andrea, ti saluto, un saluto a tutta Teramo. Ma io credo che il livello si è sicuramente abbassato, dovuto anche alla situazione economica. L'esplosione delle economie dell'est Europa hanno drenato molto dei soldi, nel senso che i giocatori migliori, avendo loro più soldi, hanno più scelta e hanno potuto prendere tanti giocatori. La differenza, e qui vengo perché Teramo va così bene, è la capacità di scegliere i giocatori, e lì si vedono attraverso i presidenti, attraverso gli addetti ai lavori, i direttori sportivi, gli allenatori, chi vai a scegliere, e lì la programmazione diventa importante. Siena ne è l'esempio, che ha scelto, non dimentichiamoci che Siena, a me piace ritornare a Siena, ma Stonruk, Eze, Kaukenas, Sato, McIntyre, okay. Giocavano tutti, se non in A2, in ogni caso nel campionato italiano. È qui che sta la bravura nel saper scegliere. Teramo perché ha fatto così bene? Perché ha un nucleo forte, una società seria, ha saputo scegliere gli uomini giusti. David Moss l'anno scorso era Iesi, e quindi giocatore del campionato italiano. E sta diventando fondamentale la capacità di scegliere i giocatori, non potendo più vantare la possibilità di andare a prendere i migliori giocatori in assoluto, perché parlavi dell'Eurolega, ma Panathinaikos e Olympiacos hanno un budget che sfiora supera i 40 milioni di euro, hanno il giocatore più pagato d'Europa, che è questo Josh Childress, che ha firmato per quasi 20 milioni di euro un triennale, che poi vediamo che venendo dall'NBA i risultati sono poco edificanti. Però in ogni caso i contratti e i giocatori migliori vanno verso quelle economie che per adesso, vedremo poi in futuro, tirano di più. Sì, anche lì prima è un discorso che facevamo a microfoni spenti, anche ad esempio in un campionato come lo greco, ma non è un mistero, quindi si può dire, parlavo l'altro giorno con Sven Schulz, che incontrato per caso, giocava la rissa, campionato greco, dice da 6 mesi, ora a Casaremo Ferrato da 6 mesi non vedevamo un euro, perché quindi non sono situazioni che ci sono anche in sistemi che appaiono più ricchi rispetto al nostro, come no, ma poi greco. Noi parliamo di Olympiacos, Panathinaikos, ma il campionato greco è ancora meno interessante di quello italiano, perché ci sono situazioni come l'Arisa, ci sono anche tante altre squadre che hanno molti meno soldi delle squadre medie italiane, quindi anche lì, sai, noi prendiamo sempre ad esempio le squadre più forti in Europa, però nei campionati nazionali ci sono situazioni difficili. Forse quello che sta meglio è il campionato spagnolo, che ha una visibilità e anche un'efficacia nel proporre il prodotto basket diverso a quello italiano, uno stato di salute migliore, diciamo. Sì, certo. Anche se guardando le Final Four di Eurolega ti resta l'impressione che è un livello a cui noi non apparteniamo al momento. Sì. Quello, l'altro giorno ne parlavamo con Sergio Scariolo invece su queste frequenze, e insomma inutile stargli a girarci intorno a questione di budget, perché come diceva Sergio Scariolo, che citava Galliani, le squadre più ricche arrivano lì. Il dato di fatto è che Final Four, le squadre più ricche, d'altronde si dice che i soldi misurano la nostra libertà, effettivamente più hai soldi più sei libero di scegliere i giocatori migliori, vai alle Final Four. Io saluto Simone Sandri, ciao Simone. Buon pomeriggio. Che mi risulta non ci risponde da oggi dagli Stati Uniti, perché è dalle nostre parti con il suo amico Steve Nash, giusto? Esatto, sì, proprio così. Com'è andato ieri a Milanello, Steve? Praticamente siamo, stiamo facendo una sorta di recruiting per questa partita di beneficenza che organizziamo io e Steve a giugno a New York tra giocatori di calcio e giocatori di NBA, e allora abbiamo fatto una breve toccata e fuga in Italia e in Inghilterra per sondare un po' il terreno, e poi Steve andrà anche a Barcellona e Madrid, e è andato a Milanello, si è divertito tantissimo, ha visto l'allenamento del Milan, ha fatto anche degli esami a Milan Lab, ma e se è per lui ovviamente il calcio la sua grande passione, per cui si è divertito tantissimo. Gli ho sentito dire che sperava di essere convocato per Milan Juventus di domenica. Vediamo se adesso vedremo le convocazioni di Ancelotti, non mi sorprenderei troppo, perché sarebbe un'ottima mossa dell'ultimo momento, magari con metterlo dentro gli ultimi 10 minuti, vedere se con un colpo di testa o qualcosa alla fine può risolvere la partita. In attacco allora? In attacco, sì. Lui è un fantasista, è un fantasista. Allora al posto di Kakà. Bravo, sì. Lui è un fantasista, però è un giocatore che è molto moderno calcisticamente, perché è un fantasista ma corre tantissimo, è un tackle molto inglese, per cui è un giocatore molto moderno a centrocampo, in più ha salta di testa molto bene ovviamente, ed è ambidestro, per cui è un'altra qualità interessante, per cui sarà interessante vederlo giocare. Ti posso dare questa anticipazione che molto probabilmente giocherà a calcio a Toronto a luglio, quando il Cagliari farà un amichevole con la squadra di Toronto, dell'FC Toronto, della MLS, cioè, molto probabilmente Steve giocherà per Toronto, per cui si vedrà, si potrà veramente confrontare con la Serie A in quel momento lì. Dimmi invece dove va a giocare a pallacanestro l'anno prossimo. Per adesso ovviamente Phoenix ha un contratto con Phoenix, per cui la palla è dalle parti di Phoenix, però è anche vero che Phoenix ha talmente tanti problemi in questo momento che tutte le soluzioni sono possibili in questo momento, non mi stupirei proprio di nulla. Dimmi anche se Cleveland, che nella notte è andata 2-0 su Atlanta, 105-85 il finale, la strada spianata fino all'ultimo atto. Senza dubbio Cleveland sta giocando un basket straordinario, LeBron James è un giocatore, è un MVP che sa far tirare fuori il meglio dai propri compagni, sta giocando una postseason straordinaria, non vedo assolutamente nessun ostacolo per Cleveland fino alla finale, e prevedo una finale con i Lakers. Devo dire, per i tipi di matchup, secondo me i Lakers sono comunque favoriti con Cleveland, però per come sta giocando Cleveland sicuramente sono in grado di fare grandi cose anche in finale contro eventualmente i Lakers. Grazie Simone, alla prossima. Grazie a voi. Grazie Simone Sandri. Chiudiamo con Andrea Davarese. E poi Carlo, se vuoi, ho intanto calcolato la classifica tra Ferrara, Pesaro e Cantù. Dopo Andrea Davarese ce la dici. Andrea. Sì, pronto, buongiorno. A proposito di Milanello, spunta Andrea da Varese. Esatto. Io volevo fare una considerazione semplicissima su Varese, volevo chiedere un parere su cosa poteva fare questa squadra. Si tratta di capire quale squadra. Adesso Varese è tornata nel posto che gli compete, cioè nella A1 e nella Lega A. Bravissimo Pilastrini, bravissimo soprattutto Cecco Vescovi, GM della formazione, che ha costruito una formazione che ha riportato entusiasmo, amore a Varese. Adesso ci sarà da ricostruire la squadra in base ai nuovi regolamenti che prevedono un po' una piccola rivoluzione, un italiano in meno, un comunitario in più. Insomma, dovremo aspettare adesso un attimino presto. Allora Fabio, chi va ai playoff? Allora, in caso di classifica di arrivo a pari punti di tre squadre, si calcola la classifica avulsa con gli scontri diretti. Allora, Ferrara è in svantaggio con Pesaro, perché Pesaro ha vinto due volte, quindi 2-0 per Pesaro. Ferrara e Cantù sono 1-1 con più 2 per Ferrara, e Pesaro e Cantù sono 1-1 con più 4 per Pesaro. Quindi vuol dire che in caso di arrivo a 28 punti di tre squadre, se non ho sbagliato i calcoli, dovrebbe andare Pesaro. Sicuramente li hai sbagliati. Grazie mille. La terrificante classifica avulsa fatta al volo potrebbe essere sbagliata. Esatto. Mario, grazie, torni a trovarci. Ma sicuramente, se mi invitate, molto volentieri. Grazie a voi. Ti invitiamo altro che. Intanto in bocca al lupo per una promozione che arriva. Speriamo, tocchiamo ferro, legno, tutto, bussiamo. Domani sera Piacenza contro? Contro Villafranca. Vengo. Domani sera 21. Ok. Andiamo tutti a vedere Mario Boni e Sconocchini. Grazie Mario Boni, Flavio Suardi qui con me, Gigi Borghi in redazione, Filippo Aureggi in regia. Torno con lo sport domani pomeriggio dalle 17 alle 18. Vi aspetto.